Cardone, dal Mille, da Bicio. Adesso un poco che ancora non ci daremo a cosa che li conosci. Via, è una bella cinisa guai. È rimasto un'ora scioccato, ha detto mamma mia che schifo, cazzo. E fatele che fa vero, fatele che fa vero. Allora, è tutto programmato, eh. Poi invece non

ho già visto. Dove siete diritti? A Piazza dei Fili. Grazie. No, perché le molte volte ci sono messo in macchina con lo stereo, non ci hanno fatto niente. Sono così, ma siete in movimento adesso? No. Fermi. Fermi, fermi. State pensando? Ma è attivo, se ne siamo spostati. Adesso, me l'ho fatto la prova, come ti avvicini, ho capito. Probabilmente deve avere qualche cosa di espressione in uso. Cosa? Via fa? Ah, quello lì della macchina. Qualche amplificatore va di espressione. Ah, si è affacciato. E quello è parte di parte. È un ritorno di frequenza, forse. Non si sa. Sa chi lo sa. Chi lo sa? No, no, sarà. E per qualche, no, che niente fa. Chi lo devo fare? E provo andare a ballare. Oh, ma mi piace ballare. No, no. Non mi piace la cosa, devo. Giovanotto, giovanotto. Oh, via, siamo fermi, la discoteca, vai. Prima, da dove si ci dà, ma io ti siamo andato a dormire. Sì. Sì, non è vero, andavo a farrame basso. Ma ci andavo per conoscere le ragazze. No, beh. Ma, no, no, me, non mi era piaciuta la discoteca. No. No. Ma già mi piaceva. Tutta la grafamia andava lì. Quei giorni lì andavano tutta la discoteca, quindi andavo anch'io. Beh. No, no, io proprio negativo per la discoteca, è negato. Ma tanto mi piace. Ti piacciono tutti? Ragazzi. E allora beh, non sono tutti che piacciono le discoteche. E le rimpiace di Israele? E altro le rimpiace di Zoma? Ma che... Così non le rimpiace non per Zoma, no? Ma dai a tu, che hai una cosa strana quella, dai. Perché? Dice poco ma sicuro, perlomeno. Da parte mia posso confermare che è molto ma molto più buono del Pedisoma. C'è invocazione di sì. Canale porno? Sì, mi piace a voi. Beh, qualche volta bisogna dirla. Mi ha sentito la registrazione. C'è una voce abbastanza grossa, no, a quanto pare. Via. Allora se ti trovo, se ti trovo ti faccio sentire. Ma oggi, siamo qui. E cos'è la risamotto? La moto del passato. Ah, chi stava parlando? Non ero io stavo parlando. Grosso la voce. No, no, no. da Pierpaolo è tutta un'altra musica, dai. Cosa ha diminuito? Colorazione. La colorazione ha diminuito. pensiero. Pesca, ho detto oggi. Pesca, perché c'è un coccolè a casa dottore. Pronto, Michele, aspetta che la pesca è andata un po' maluccio oggi, dai. Niente, se la pesca è andata maluccio. Ah, beh. Almeno c'è il giocattolino per stasera. Oggi lo troviamo in Grecia. Già ce l'ho da quel poco, l'ho preso il chiostro. Oh, c'è problema per la seppia, no? Mi è andato bene. Allora, certo, la similare. Cavagata. Ma il vivo ce lo sto portando il pesce. Ma c'è un'altra pure. Ah, è già per la ricola. Sì, ha scorreggiato. Per io tutti da guarda, hai tre volte la radio. Vai, va. E sono andato fuori a farlo. È possibile che avete sentito la sua moto? Se la sono facendo il finestrino. Ti sentito? Dai, non è il riporto, dai. Siamo a... E allora perché tu hai disfatto, vai. Ehi, vabbè. No, ma bisogna di altro, dai. Dai, vuol dire che... Stai facendo la digestione, dai. Che c'è uno qua, io ci sto facendo l'aria da tutta la parte. Che c'è lì? Anzi, arrivati, siamo fermi. Forti, pace. Ce n'è da piedi, mi sembra. È lui. Non ho preso la macchina. Se no le fanno la cosa, la prova del chilometro. Ma come è? E Andini, non è avvicinato, non manca. Va bene, dai, già rimango un altro pochettino in ascolto. Allora, va.